Pubblicato sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Nico Menchini, dal titolo La mia domenica. Non cerco baraonde affollate, né paradisi da copertina a farmi da sfondo nelle foto. Chiedo solo di passarla così, in tacito raccoglimento dentro una chiesa semideserta, ad un tavolo accovacciato da volti a mecare riscaldato, condividendo un pasto semplice, e girare tranquillo per casa come un cane che non ha meta, senza scadenza ad attendermi, né orari da prendere al volo come gli inarrestabili treni.